Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Romanzi in valigia. Per l'appuntamento estivo con il cacciatore di libri, romanzi in valigia, l'appuntamento ve lo ricordo sempre alle 14 del sabato, oggi vi parlo di uno dei libri che è arrivato in finale quest'anno al premio Strega, ossia Il padre infedele, scritto da Antonio Scurati, pubblicato da Bompiani. Questo è il libro che si è classificato secondo allo Strega dopo quello di Francesco Piccolo, Il desiderio di essere come tutti, per soli 5 voti. Allora, di cosa parla questo romanzo? Veniamo ai contenuti. Insomma, racconta la storia di un uomo, Glauco, un quarantenne che fa lo chef ed è in crisi sentimentale con la compagna, la tradisce anche, cose varie. Ma secondo me questo romanzo, più che concentrarsi sulla crisi sentimentale in questa coppia, è una grandissima dichiarazione d'amore di un padre verso una figlia, perché Glauco, il protagonista del romanzo, riversa su di lei una serie di riflessioni, pensieri che non aveva mai fatto prima in vita sua. Inizia a pensare di essere diventato grande, cioè si rende conto esattamente il momento in cui diventa grande, e ormai sappiamo che si diventa grandi spesso a 40 anni, anche se può sembrare surreale, però è questo quello che succede. E allora abbiamo chiesto innanzitutto a Scurati che cosa sta cambiando nella mente del protagonista. Il protagonista, Glauco Revelli, è un uomo che un giorno ha avuto la sventura di assistere a uno spot pubblicitario in televisione, e questo ha deciso della sua esistenza. Ha trascorso i primi 30 anni abbondanti della sua vita dedito a se stesso, come molti di noi. Il dilemma fondamentale della sua esistenza era se sarebbe stato più piacevole trascorrere il fine settimana al mare o in montagna. Poi una sera vede lo spot della pasta Barilla e quella finzione, ma meglio quell'illusione di felicità coniugale, lo seduce in una sorta di resipiscenza, gli torna l'idea di una possibile felicità domestica. La famiglia era per lui fino a quel momento un'ipotesi lontana come la vita su Marte, e a un certo punto decide che anche lui vuole essere in mezzo a tutti gli altri e decide di farsi una famiglia, si innamora di una donna, perché oggi per noi, nel nostro immaginario residuale della famiglia, l'idea di famiglia è indissolubile, diciamo così, dalle corsie di un grande supermercato. Si innamora di una donna, con lei genera un figlio, che è un figlio dell'amore, e ciò che gli accade è che questa figlia amatissima, Anita, è al tempo stesso il frutto dell'amore, ma è anche, come ha notato un critico letterario acutamente, è la lama che taglia in due questo frutto. Nell'attimo stesso in cui lui e la moglie Giulia diventano una famiglia, cessano di essere una coppia. Ed è per riprendere quello che dicevi tu, effettivamente spesso è stato presentato in versione giornalistica come la storia di una crisi coniugale. Io non credo che sia quello il cuore del libro. Il cuore è invece effettivamente questo formidabile, straordinario amore che questo nuovo padre nutre per la propria famiglia, e che nel suo caso, come nel caso di molti di noi, scorre parallelo alla storia di un disamore, quello tra lui e la moglie. In effetti l'aspetto che le coppie a volte si distruggono proprio nel momento in cui nasce un figlio è un aspetto già trattato in parte dalla letteratura ed è una cosa che comunemente possiamo vedere. L'aspetto che più mi è piaciuto di questo romanzo è come cambia la percezione del mondo nel protagonista nel momento in cui diventa padre, nonostante non diventi un santo. Infatti il titolo è Il padre infedele, cioè continua ad avere i suoi problemi di relazione con la compagna, continua i suoi tradimenti, continua ad avere comunque degli aspetti forse infantili del suo carattere, però la nascita di un figlio lo cambia profondamente. Io più che aspetti infantili li definirei aspetti regressivi, cioè questi nuovi padri di cui Glauco Revelli vuole essere un rappresentante letterario vivono questa scissione profonda. Da un lato stanno sperimentando dentro di loro un nuovo amore verso i figli, che io tendo a definire un amore materno, sono padri che amano i figli di un amore materno. Dall'altro, per molti motivi che adesso non abbiamo il tempo di spiegare, quando lo divengono padri, anche perché spesso lo divengono tardi e una sola volta nella vita, attorno ai 40 anni, subiscono delle profonde spinte regressive verso una maschilità di tipo animale, che è perfettamente estranea alla paternità, cioè che si riduce all'atto sessuale brutale e non si prende cura delle conseguenze di quell'atto. E Glauco è in questo, diciamo, rappresentativo dei nuovi padri. È da un lato padre-madre, dall'altro però maschio-regressivo. Se posso permettermi una cosa velocemente, è vero che la crisi coniugale che segue la nascita del primo figlio è stata raccontata. Io credo che forse la novità di questo libro è che tutto ciò che concerne il generare i figli, a cominciare dalla gestazione nel ventre, e poi il parto, e poi la dormizione, e poi la vestizione dei figli, viene raccontato da un punto di vista esclusivamente, dichiaratamente maschile, cosa che fino ad oggi non è stata fatta per un semplice motivo, perché fino a ieri la nostra società relegava queste esperienze all'ambito femminile, e quindi uno scrittore, anche quando le raccontava, si sentiva in dovere di assumere un punto di vista femminile, di creare un personaggio femminile e medesimarsi in lei. Invece la novità è questa: oggi il padre è convocato sulla scena della madre, e quindi tutto questo è interessante raccontarlo dal punto di vista del maschio. È stato molto interessante leggere il punto di vista del maschio, anche perché hai dato un punto di vista non edulcorato. Non è che quest'uomo, nel momento in cui diventa padre, come si diceva prima, diventa un santo, no, continua a fare i suoi errori, però cambia prospettiva nel momento in cui capisce che quella figlia per lui costituisce un legame che non verrà mai spezzato nella sua vita, e c'è anche un senso di responsabilità, oltre che di amore immenso per questa bambina. Sì, è esattamente questo. Io sento che corrisponde la descrizione. C'è poco da fare. Adesso può suonare anche per un certo verso così problematica questa affermazione, però la scoperta, ed è paradossale che si tratti di una scoperta, che fa Glauco Revelli e assieme a lui tanti di noi, diciamo, di questa generazione, è che alla fine al mondo, nella vita, non c'è nulla di più forte del legame che unisce i genitori ai figli. E questo legame è una scoperta, perché noi viviamo in una società in cui i figli sembrano, il generare i figli sembra essere divenuto qualcosa di accidentale, di secondario, no? Di marginale, anche nello stesso bilancio delle nostre esistenze. Ripeto, facciamo pochissimi figli, e quando li facciamo tardi. È di ieri il dato statistico secondo il quale nel 2014 in Italia il saldo di popolazione, cioè la differenza tra i neonati e i defunti, è di meno 76.000, è il più basso della storia di sempre, da quando noi lo registriamo. Allora, come io scrivo, paradossalmente nella nostra società i figli sono diventati una questione di minoranze, li abbiamo rilegati, dimenticati, consegnati a minoranze attive. È uno dei grandi paradossi, anche dei grandi scandali del nostro tempo. Tant'è vero che tu parli di nostra infecondità generazionale, ma con questa frase ti riferisci solo all'infecondità, cioè al non fare i figli, o c'è qualcos'altro dietro questa frase? No, allora, ovviamente questo è un libro sulla paternità, sulla la nuova condizione paterna, e dunque sulla nuova condizione umana, diciamo così. E io qui parto da un significato letterale, cioè io sono nato anch'io, qui non mi nascondo, in quanto autore, nel 1969, in Italia, che ha questa peculiarità, appunto, di questa scarsissima generazione di figli, e appartengo a una generazione che è stata forse la più, tra le più ricche, agiate, meglio nutrite, meglio vestite, longeve, protette e sicure che abbia mai calcato la faccia della terra, rispetto a qualsiasi altra epoca e a qualsiasi altro luogo del pianeta, eppure ha messo al mondo pochissimi figli. Cioè è una generazione infeconda in senso letterale. Dopodiché, ovviamente, l'unico modo di generare, di creare una novità radicale nell'essere, non è quello di figliare. Ci sono anche altre attività, non moltissime, che corrispondono a questa capacità generativa. Io penso, quando parlo di infecondità qui a livello metaforico, che noi ci siamo indeboliti anche dal punto di vista di questo significato più metaforico, cioè siamo sempre più incapaci di portare nel mondo una novità radicale, di generare anche in senso lato, ecco. Dall'aspetto invece pratico, proprio a un certo punto tu scrivi: per un maschio, finché il bambino non esce, non esiste. Il padre nasce con lui, se nasce. Insomma, finché un uomo non vede il bambino, non ha un minimo di interattività con lui, non si sente ancora padre. Questo è un fatto, anche qui, e a me ha fatto piacere che tu prima notavi che questi temi che stanno a cuore a tutti noi non sono raccontati qui, diciamo, in modo edulcorato, conciliante. Il dato per cui il padre nasce con il bambino è un dato incontrovertibile, poi tendiamo a dimenticarlo, ci raccontiamo delle frottole, ma il padre non lo porta nel ventre il bambino, per lui è un'astrazione finché non può stringerlo tra le braccia, finché la madre, come dire, non glielo dona. E questo vale anche sul piano culturale più generale. Il padre in natura non esiste, il padre è una costruzione culturale. È dubbio se esista la madre in natura. Per esempio, ci sono state, come dire, delle visioni che hanno in qualche modo condannato la donna a sentirsi in difetto se non si sentiva madre, perché hanno per secoli sostenuto che la madre, la maternità fosse un fatto naturale. Io non sono affatto sicuro di questo, molte donne lo hanno contestato questo aspetto e forse lo hanno contestato a ragione, ma di certo che il padre in natura non esiste, è una grande costruzione culturale. In natura esiste il maschio inseminatore, le specie a noi prossime, quelle dei grandi primati e delle grandi scimmie, non conoscono la cura e l'attitudine paterna, è un'invenzione dell'umanità, secondo molti l'umanità nasce addirittura con la paternità, ed è un'invenzione sempre in pericolo, sempre minacciata, revocabile. Ogni società e soprattutto la nostra oggi deve reinventare il padre. Secondo me questo è una delle grandi sfide, delle grandi avventure dell'umanità di oggi, in questo pezzetto qui di mondo, io parlo di noi, non di tutta l'umanità, ma di questa nostra umanità, reinventare la figura paterna. L'uomo nel momento in cui diventa padre cambia anche il rapporto col tempo. A un certo punto, proprio nelle conclusioni del tuo romanzo, tu fai dire al tuo personaggio che inizi più a non pensare al breve periodo, ma inizi a dilatare il tempo e a pensare anche a cosa sarai tu e che cosa sarà tua figlia. Guarda, è esattamente questo il punto. Prima, quando dicevo che generare dei figli può assumere anche un significato metaforico più lato, cioè di portare nel mondo una novità radicale che andrà nel futuro lasciandoci indietro. In fondo fare dei figli significa questo, mettere al mondo qualcosa che ci sopravviverà, entrare in rapporto con la nostra finitudine, con la nostra mortalità, ma facendolo dicendo di sì alla vita, senza malinconia, con gioia. Ebbene, questo richiede un sentimento del tempo ampio. Io dico spesso che noi viviamo oggi nel tempo della cronaca, cioè viviamo schiacciati sul presente, come viene detto da molte parti, misuriamo tutto ciò che è la nostra esistenza su un metro molto corto, un metro breve, il metro del giorno dopo giorno. Ecco, sono da che mondo è mondo? Alla base, no, della, proprio su un piano antropologico, il modo più diffuso, basilare, per mettersi in contatto con il futuro e generare dei figli. Non è l'unico modo, ce ne sono altri, costruire qualcosa che ci sopravviverà, l'arte, tante altre cose, però questo è il modo basilare che è a disposizione di tutti gli uomini. Ecco, questo è un romanzo su un sentimento del tempo vasto, su un tempo che viene di lontano e va lontano. Qualcuno ti potrebbe dire che è un po' la scoperta dell'acqua calda, nel senso che tu probabilmente avrai vissuto questa tua esperienza in tempi recenti e quindi la scoperta della paternità, come le donne nel momento in cui diventano madri, cambiano completamente visione della vita. C'è bisogno di arrivare a 40 anni e oltre per rendersene conto? Ma infatti questo è il grande paradosso, ma è il paradosso che la nostra generazione sta vivendo. Cioè noi arriviamo a 40 anni, no, spesso, per scoprire che effettivamente generare dei figli è un perno cruciale dell'esistenza. È sicuramente un paradosso, è anche un po' ridicolo. Infatti questo, a detta di alcuni, è il mio primo libro in cui ci sono anche degli aspetti comici, perché è grottesco, no, questo nostro vivere fino a 40 anni quasi ignari di quale sia il perno dell'esistenza, ma è esattamente la condizione in cui versa oggi questo pezzetto qui di umanità che siamo noi, è quella cresciuta appunto nell'Europa occidentale, nel Nord America, in quella vasta area di privilegio che ha equivocato così profondamente sull'esistenza al punto da arrivare a 40 anni e scoprire che la paternità o la maternità è un po' il sale della vita ed è forse l'unico evento della nostra esistenza, quello che la divide in un prima e in un dopo. E questo era Antonio Scurati su Il padre infedele, pubblicato da Bompiani. Il cacciatore di libri. Romanzi in valigia. C'è sempre qualcosa di divertente che alla fine consiglio in questo appuntamento con Romanzi in valigia, visto che insomma è estate, abbiamo voglia anche un po' di divagare, insomma, e anche di vagare con la mente. Ho scelto questa volta un libro di un esordiente, si chiama Marco Ghizzoni, il libro si intitola Il cappello del maresciallo, pubblicato da Guanda. Quando per la prima volta ho parlato di Ghizzone al cacciatore di libri, l'ho definito un esordiente da tenere d'occhio. Adesso vediamo se poi, insomma, avrò ragione su questo. E il suo romanzo è sostanzialmente una commedia degli equivoci, è un finto giallo, è assolutamente un finto giallo, ma è più una commedia degli equivoci. Diciamo che è un romanzo ironico ed è un mix fra Marco Malvaldi, Andrea Vitali e c'è anche un pizzico forse anche di Camilleri. È una definizione che è piaciuta parecchio all'autore, sentiamolo. Sicuramente è un paragone lusinghiero, che mi fa molto piacere, è chiaro che è abbastanza impegnativo. Tu sai che adesso dovrai, come dire, reggere. Esatto. Dopo aver detto questa cosa, chi acquisterà il tuo libro, chi comunque lo leggerà, poi potrà come sempre scrivere al cacciatore di libri @radio24.it e dire: non è vero niente, di Vitali non ci ho trovato niente, di Malvaldi nulla, di Camilleri neanche per sogno. Ma non so se è meglio o peggio, perché qualcuno può dire che ha trovato qualcosa di Vitali o Malvaldi e dirlo come se fosse un complimento, qualcuno invece potrebbe anche accusarmi di plagio. Come dire, sono autori che io ho letto parecchio e sicuramente da loro qualcosa ho preso. La cosa che più mi ha colpito nella loro prosa, che ho cercato di catturare, è la felicità nel racconto, cioè il fatto che emergesse il mio divertimento, la mia felicità nel raccontare queste vicende e nel far chiaramente divertire anche i lettori. Infatti io mi sono divertita quando ho letto questo romanzo e si ha la percezione proprio che anche lo scrittore si sia divertito, parecchio. Insomma, lo si capisce insomma dalle frasi, dalle vicende che accadono. Io l'ho definita una commedia degli equivoci. Allora, non possiamo descrivere proprio tutti i personaggi perché è un romanzo abbastanza corale. Possiamo dire che è un giallo non giallo. Esatto. Facciamo delle descrizioni molto così, molto vaghe. Tutto inizia con un morto, come insomma da tradizione, e un becchino. Chi è il morto? Il morto è un liutaio, omaggio chiaramente alla mia città che è Cremona, ed è il personaggio più in vista del paese. Si chiama Boscobasso, un paese di 2000 anime, dove chiaramente, detto proprio così fuori dai denti, chi guadagna di più è la persona più importante. Lui tra l'altro viene dalla città, è una persona anche influente politicamente all'interno del microcosmo del paese, e il problema qual è? Che viene trovato sì morto, ma in circostanze, come dire, compromettenti. Non molto carine, soprattutto da sostenere per la moglie. Esatto, ma qual è il problema per la moglie di Vige? Non tanto che il marito sia morto, perché in provincia la cosa più importante è salvare la faccia. L'apparenza, assolutamente. È l'apparenza. E visto che lui è stato trovato, insomma, a cadavere, con i pantaloni abbassati, in una zona frequentata da prostitute, questa è una cosa grave. Da qui, quindi, Edvige, che è una donna, insomma, piuttosto volitiva, oltre che molto, molto bella e affascinante, decide che vuole avere una sepoltura particolare, insomma, cerca di corrompere il becchino perché vuole che il marito venga seppellito in un posto invece che in un altro, insomma, vuole che vengano riconosciuti tutti, insomma, come dire, gli onori. È certo. Al suo defunto marito. A questo punto intervengono una serie di personaggi. Innanzitutto il maresciallo che dà il titolo al romanzo, il cappello del maresciallo, perché ovviamente, come in ogni piccolo paese che si rispetti, oltre alla figura del sindaco che c'è in questo romanzo, il parroco, in questo caso c'è il becchino, ma soprattutto ci sono i carabinieri. Sì. Chi sono questi carabinieri che più o meno devono indagare su questa morte? Beh, nei piccoli paesi i carabinieri è la figura di riferimento per qualsiasi cosa. Qualunque sia il problema, la gatta da pelare, si chiamano i carabinieri. A volte anche per inezie, o a volte anche per, si può dire, radio stronzate? Sì, si può dire. Si può dire, a volte anche per stronzate. A me premeva, come dire, uscire un po' dal cliché del carabiniere da barzelletta, che penso che sia poi una questione un po' trita e ritrita, e volevo che fosse chiaro soprattutto l'aspetto umano che c'è dietro la divisa. Umano, attenzione, non solo nelle sue passioni, ma anche nelle sue debolezze, nella meschinità che poi appartiene a tutti gli esseri umani, carabinieri compresi, come poliziotti, uomini in divisa, politici e quant'altro. E ma perché lui viene in qualche modo invischiato? Perché in teoria lui dovrebbe indagare. Ma quando lui sta rientrando da una licenza di un mese nella sua Agrigento, quando rientra non ha minimamente voglia di mettersi lì a lavorare, avere un problema, un caso da risolvere. E invece viene tirato in ballo perché? Perché Edvige non vuole che lui indaghi, proprio per quello che dicevamo prima, cioè per mettere a tacere il modo, le circostanze in cui è morto il marito. Insomma, forse non vi stiamo facendo capire molto della trama, però insomma poi leggendolo vi assicuro che si capisce tutto. C'è molta provincia in questo romanzo, la provincia è quella di Cremona, dove tu sei nato e cresciuto, sì. E hai anche dichiarato che hai preso spunto un po' per la descrizione di questi personaggi, per le storie, dal tuo punto di vista proprio personale, perché tua mamma aveva un bar, esatto, in provincia, e quello è un punto d'osservazione meraviglioso. Esatto, esatto, soprattutto perché l'ha avuto per 20 anni circa, dai miei 11 ai 30-31, insomma, cioè adesso. Quando ti sei formato. È quello che ha fatto la differenza, quindi inconsapevolmente le storie hanno cominciato a sedimentare dentro di me quando io ero un giovane virgulto, come dire, e avevo ben altro per la testa che scrivere romanzi. E lì ho proprio anche compreso e assorbito le dinamiche umane e sociali tipiche della provincia, che differiscono poi da quelle delle città, soprattutto delle metropoli. Ora Cremona è sì una città, ma una città provinciale. Però alcune cose sfuggirebbero, ecco, a uno sguardo anche attento. Invece in un piccolo paese come Boscobasso, che è un paese immaginario ma ispirato a un paese vero, balzano all'occhio inevitabilmente. E queste dinamiche della provincia mi hanno fatto pensare per esempio ai romanzi di Andrea Vitali, come dicevo prima, oltre ad un escamotage letterario che tu usi, cioè termini sempre un capitolo, in genere sono capitoli snelli, brevi, con il là del capitolo successivo, che è un po' anche la cifra di Vitali. Esatto, io come dicevo prima ho cercato chiaramente di imparare, Vitali è il maestro secondo me della commedia italiana, e quando io mi sono avvicinato alla sua scrittura, penso fosse il primo romanzo La modista, se non sbaglio, che oltretutto deve essere quello che ha venduto di più, ho notato proprio questo, cioè la sua capacità di aprire e chiudere i capitoli. Tra l'altro abbiamo parlato di altri scrittori, tu hai detto che hai letto Vitali, lo stesso Camilleri che fa un cameo, insomma una piccola citazione in questo romanzo, però in realtà il tuo scrittore preferito è tutt'altro genere, insomma. Esatto, sì, è Aldo Busi. Aldo è Aldo Busi. Secondo me è un po' schizofrenico, sai, no? Beh, io quello di persona non lo conosco. Ha scritto, secondo me... No, sei tu schizofrenico, perché pensavo scrivi Aldo Busi. No, assolutamente. Cioè, uno che ha una passione per Aldo Busi, poi mi scrive in tutt'altro modo. Perché io quando mi sono messo a scrivere ormai 12 anni fa, mi sono reso conto che la mia voce è questa. Dopo l'ho affinata grazie alle letture di Vitali, dei libri di Malvaldi, grazie a Giovanni Cocco, però la mia voce è quella. Io ho detto in più di un'occasione che Aldo Busi è uno scrittore straordinario, da leggere ma assolutamente da non imitare. Non c'è bisogno, secondo me, di un altro Barbino in letteratura, di un altro Celestino Lometto, di un altro Angelo Bazzaruvi, perché li ha già scritti lui. Cioè ritengo che ogni suo romanzo sia una pietra miliare della letteratura italiana. Parlo di romanzi, lascerei stare eventuali libri di viaggio, che ogni personaggio si esaurisca in sé, sia già 30 anni, 40 anni, 50 anni di storia dell'Italia, ogni personaggio, proprio di costumi. Al di là degli altri scrittori, parliamo di Marco Ghizzone, del cappello del maresciallo. Dicevo prima che questo è un romanzo scritto in modo molto ironico, si capisce che ti sei divertito anche a scriverlo. Sì. Visto che è il primo romanzo pubblicato, tra l'altro so che in Guanda appena l'hanno letto, è bellissimo, l'hanno subito preso e catturato, insomma non ti hanno lasciato sfuggire, e la tua cifra, diciamo, narrativa è questa dell'ironia, insomma se tu hai scritto altri libri o se pubblicherai altre cose è questo il tuo modello? Sicuramente, sicuramente, devo dire la verità, non è che mi sforzi più di tanto, ma anche nella vita di tutti i giorni io cerco sempre anche di affrontare ogni situazione, anche quelle che possono essere negative, con ironia. Mi piace non affrontare con superficialità, che è un altro discorso, però ridere, o meglio sorridere, della stupidità, della meschinità, anche di eventi magari negativi. Mi piace comunque prendere le distanze in questo modo. Ritengo che le persone che si prendono troppo sul serio tendono poi a fallire. Uno dei personaggi appunto centrali di questo romanzo, tornando un po' alla trama, è questo personaggio femminile, appunto Edvige, che sembra un po' essere quella che manovra un po' tutti i fili, i cavi, insomma, di questa situazione. È una tua visione delle donne questa? No, ma in realtà la visione delle donne è positiva. Allora, vi spiego, io sono cresciuto sostanzialmente con mia mamma e mia sorella, perché mio padre è morto, che io avevo 11. Poi io ho fatto il liceo linguistico, eravamo 22 ragazze e 3 ragazzi, e adesso anche in casa editrice sono tutte donne. E quindi sei circondato, insomma. Sono circondato, ma secondo me ho avuto un punto di quindi vista... Quindi sono loro che gestiscono, sì, un po' il gioco. Ma ho avuto un punto di vista favorevole, perché la capacità delle donne qual è? Poi chiaramente non in tutte, ma nella maggior parte qual è? Non tanto di manovrare l'uomo con la seduzione, ma di far credere all'uomo di essere sedotte, cioè di toccare il tasto giusto per solleticare l'orgoglio, il machismo. Ma non è un vecchio luogo comune, insomma, questo che le donne alla fine fanno, in realtà fanno fare agli uomini quello che vogliono? Secondo me no, è che l'uomo ancora non se n'è accorto, quindi rimane un nuovo luogo comune. Cioè, molti uomini non se ne sono accorti, cioè il machismo è ancora in Italia, poi è imperante, e molti orate sono convinti di manovrare le donne, quando invece è il contrario. È curioso sentirlo dire da un ragazzo di 30 anni, appunto, ormai se lo si sente dire sempre dai 40, 50, 60 anni, invece sentirlo da te, insomma, fa un certo effetto. Poi ho avuto l'esempio di mia zia, questa divisa è ispirata a mia zia aveva questa capacità al bar quando lavorava con mia mamma, il sorriso, la parola, toccava il tasto giusto, faceva fare quello che voleva ai clienti, che fossero poi più o meno anziani, poi quando era il cassetto era pieno, che era il momento di andare a casa, basta, si chiudeva tutto, tirava giù la serranda, chi si è visto si è visto. E io pensavo, adesso questi non tornano più, e invece il giorno dopo erano ancora lì. A proposito delle storie che hai raccontato, ti sei ispirato appunto alla vita vera, il paese immaginario, ma fa riferimento a un paese che esiste realmente, in provincia di Cremona. Proteste, minacce? No, ancora no. No, perché la cosa curiosa è questa: in provincia scatta un meccanismo che si chiama identificazione. Allora, come uno legge un romanzo che lontanamente parla del paese in cui uno è nato, mm-hmm, vissuto, o un cognome che magari è lì perché è un cognome tipico del cremonese in questo caso, pensa che il personaggio sia ispirato a lui, e questo non è vero, ci tengo a chiarire che non è vero, sono tante cose insieme e sono le dinamiche, quindi minacce no, anzi, persone veramente contente che non vedono di sapere qual è il personaggio di riferimento, in realtà non ce ne sono. Però insomma tu te la tiri e dici che sei un... No, anzi cerco di... Anche perché cosa succede? E l'altro aspetto della provincia è che sono tutti permalosi. Allora, nessuno l'ha letto, secondo me, se davvero dovessero leggerlo o dovessi andare là a parlare del romanzo e scoprissero che è, come dire, una favola del potere, anche una satira dei costumi di provincia, probabilmente in quel caso sì, si offenderebbero, perché loro si aspettano sempre che i personaggi di riferimento siano, come dire, positivi, tutti bravi e belli, quando così non è. Il consiglio su questo libro di Marco Ghizzoni, l'abbiamo detto all'opera prima, Il cappello del maresciallo, pubblicato da Guanda, è di leggerlo un po' tutto d'un fiato, perché ci sono molti personaggi, è un romanzo corale, e quindi se si leggono 2 o 3 pagine al giorno poi si perde un po' il filo, ma soprattutto il ritmo, perché è un romanzo fatto veramente da grande ritmo, oltre che da grande ironia. Grazie a Marco Ghizzoni. Grazie a te. Io ti ho definito un esordiente da tenere d'occhio, se poi mi tradirai non avrai successo, non farai quello scrittore, me ne assumerò tutte le responsabilità. Spero di no. Altrimenti sarò stata una delle prime a scoprirti. Grazie Marco. Grazie mille a te Alessandra, ciao. E questo era Marco Ghizzoni, scrittore esordiente, con Il cappello del maresciallo, pubblicato da Guanda. Vi ricordo che l'appuntamento speciale con Romanzi in valigia è per ogni sabato alle 14. Restano come sempre gli appuntamenti del Cacciatore di Libri, il sabato alle 22 e in replica la domenica alle 14. Grazie in regia Valeria Bernardi, una buona lettura da Alessandra Tedesco.